Quando erano piccoli suonava, no? E quindi a casa mia c'è sempre stato il pianoforte. E ricordo che quando ero piccola il pianoforte era nella mia stanza e prima di andare a dormire mio padre mi suonava la ninna nanna al pianoforte. E allora da quando sono piccola mi è nata questa grande passione e poi ho iniziato a studiare. Quindi ti hanno creato l'ambiente? Sì, sì, sì. E poi in futuro hai qualche piano? Posso che ti sei laureata da poco, no? Sì. Sì, mi sono laureata da poco e il programma è di andare a fare un master, probabilmente in Germania, in Inghilterra, per continuare gli studi o comunque per avere, perché è importante secondo me finché si è giovani continuare a cercare tantissimi stimoli per crescere il più possibile durante questi anni e quindi sicuramente suonare e fare concerti il più possibile, però dall'altra parte anche continuare sempre a cercare insegnanti o persone, altri studenti o ex studenti con cui suonare e creare, diciamo, situazioni per crescere. Racconti nel corso del turno precedente di consultazioni tra i governi dei due paesi sono già stati messi in pratica correttamente. Alla conclusione dell'incontro, i due premier hanno risposto insieme alle domande della stampa. Il 29 ottobre è calato il sipario sulla quinta sessione plenaria del 18° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, ha rilasciato un importante discorso. La proposta sul 13° piano nazionale sull'economia nazionale e lo sviluppo sociale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese è stata approvata. Durante la riunione è stato sottolineato che per realizzare gli obiettivi del 13° piano quinquennale occorre stabilire e attuare fermamente i concetti di innovazione, coordinamento, ecosostenibilità ed apertura. Questa è una profonda riforma che interessa lo sviluppo generale della Cina.